Carlo, non portarti via il gioco. È il mio saltimbente e me ne vado a casa. Ti prego, dagli altruismo. D'accordo, accettiamo altruismo. Altruismo? Come malattia? Sì. Saltimente. Scegli una lista, esce una lettera e per ogni categoria devi trovare una parola che cominci con quella lettera e a cui nessuno abbia già pensato. Comincia con R. Animali domestici. Rinoceronte. Cosa? Certo. Saltimente. Non ho parole. Da MB. Bruschi tu, brusco io. Buonasera McFly, bruschiamo insieme. Benvenuti, buonasera, diretta dell'Accademia della Brusca del 1 febbraio 2022, sono rimasta indietro di un giro. E, questa sera è una bellissima serata in quel di Firenze, vediamo che le giornate si stanno allungando, c'è un po' di speranza. E abbiamo... Non ti farà bindolare dai primi soli. No, che poi infatti uno si ammala anche così. Ecco. E vi abbiamo fatto sentire tutta la sigla di Ritorno al Futuro. Ma diciamo anche il perché. Perché? Dicelo pure tu. No, io non lo confesserò. Non lo confesserà, devo fare la... No, io non voglio fare la spia. Va bene, mettevo la crema nelle mani e non potevo più toccare i bottoni. Sarebbe stato tutto un... Sguisciavo. Uno scivolio continuo. È così. Bene. È così. Bene, iniziamo subito con i social. Wombat. Che ne dici? Sito. Vai. wombat.noblogs.org. twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze e la mail, la più importante, postawombat@insiberia.net, che vi servirà per scriverci delle cose bellissime, tipo siete bravissime e tanti complimenti a tutta la radio. Magnifico, quanto volete ditelo subito e si va a trattare. Si va a trattare contratti dalle radio, tipo Radio 3, queste cose, se mai volessero prenderci, non so, la domenica mattina, al loro certo approfondimento di linguistica. Sicuramente. No, noi restiamo al Wombat e cosa volevamo dirvi? Sì, che questa puntata è un perfetto seguito della puntata scorsa che abbiamo interrotto perché abbiamo fatto, anzi, la Nenia si è occupata di fare una bella raccolta di neologismi che stanno un po' occorrendo, per usare il verbo giusto, da diversi anni a questa parte, oppure anche neologismi che stanno un po' entrando in maniera preponderante nella nostra lingua. E la volta scorsa abbiamo parlato, per esempio, di neologismi legati al sessismo, di neologismi collegati al cibo, di neologismi collegati all'economia e alla politica, e oggi invece faremo qualche excursus un po' più preciso su altre parole sono nuove mode, tendenze, anglismi e via dicendo, sempre con i nostri cari amici vocabolari. La volta scorsa vi abbiamo presentato i neologismi del Devoto Oli, qualcuno della Treccani, e oggi ovviamente i nostri grandi rivali, Accademia Quella Vera. Cioè quella vera vera vera, noi siamo vere vere basta, loro sono veri veri veri. Very very very very very, very, very, very. E soltanto perché sono un po' più vecchi di me. Oggi mi sento proprio bene, ma nel senso acusticamente mi sento bene. Ah ok, basta, solo acusticamente, perché non ho messo le cuffie. Infatti ecco cosa non avevamo in testa. Sì, perché ho scoperto che non sento bene con le cuffie. No, ma poi le cuffie che abbiamo qui nella regia di Radio Wombat hanno un diametro che insomma andrebbero bene. No, sono mangiucchiate dai topolini, secondo me. Topolini, amici dei Wombat, ma poi hanno un diametro che andrebbe, cioè, veramente bene a Gulliver, probabilmente. Dici, no, io col capone ci sto proprio bene, ma se lo sento male, io ho il capone. Oddio, no, vabbè, il nostro umorismo sta scadendo. No, vabbè, io sono a pezzi, non c'è niente da ridere qui, andiamo avanti, guarda, perché oggi è proprio una giornataccia, non mi esprimo. Non ci esprimiamo e no. Che facciamo? Mettiamo un pezzo? Però scusa, non abbiamo ancora detto che è tornato Mattarella, poverino. Povero, scusa, era la notizia della settimana, l'avevo rimossa. Non l'hanno fatto andar via. Non l'hanno fatto andar via, complimenti ovviamente a chi ha riletto, poraccio. E vabbè, sul web i meme si stanno sprecando, ma soprattutto ieri sera c'è stato un servizio bellissimo al telegiornale con immagini tagliate, riprese, avete visto i soliti servizi, e abbiamo a casa si è proprio beccato Mattarella che entrava da una porta, guardava una tipa con la mascherina, ha sgranato gli occhi e ha fatto quel gesto, no, tipo di aprire le mani come per dire spallucce e manine, e dai, che cazzo. Povero. Alzando un po' gli occhi al cielo, insomma, povero Sergio. Immagini. Come dicono da queste parti, com'è? Ti sanno il cuore, ma ti si fa il culo. È proprio così, sì, brava. E tutto questo perché poi abbiamo grandi idee anche per le prossime puntate. Ideone, dialetti, guarda. Dialettologia. Ci sciuperemo. Tante cose, dal mantovano all'aretino. Bisogna solo avere il tempo di prepararle. Le idee ci sono, ci manca solo il tempo di prepararle. Però poche, abbiamo ben confuse, però ce le abbiamo, no, ne abbiamo tantissime. Però abbiamo della fantastica musica, che adesso vi faremo volete ascoltare. Volete un assaggio, volete favorire un ottimo pezzo? Sì, su, via. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa, hey. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Dovete sapere che quando ci sono i pezzi musicali, io e la Neni ovviamente ci raccontiamo un po' gli affari nostri. Beh, invece quando non ci sono i pezzi, no. Li raccontiamo a tutti. Non è Radio Fatti i Cazzi Tuoi che noi dobbiamo parlare. Dovremmo fare una rubrica che si chiama Radio Bugadara. La Bugadara in ferrarese è il luogo in cui lavi i panni, è la lavanderia, dove una volta tutte le vecchine si trovavano e spettegolavano. E me lo dici soltanto adesso? Forse l'ho detto un paio di volte, ma no, me lo sono solo dimenticato. Sognato. Si fa una rubrica Radio Bugadara a pettegolezzo sui DJ Wombat, secondo me sarebbe bellissimo. Wow. Temete e tremate. Ma che ne dici? Si inizia con il nostro mega elenco? Sì. Certo che sì. Queste parole, questi neologismi, queste nuove formazioni linguistiche, nuove mode e tendenze, ci va di aprire la puntata con questa, con questo piccolo focus. E iniziamo subito con una parola che, se detta molto in fretta e con un tono di voce molto alto, può sembrare una bestemmia. Bioalbergo. Bioalbergo, sostantivo maschile, plurale alberghi, e sinonimo biohotel, composto di bio e albergo, datato come prima occorrenza nel 2003 ed è una struttura ricettiva realizzata secondo criteri di ecosostenibilità, in quanto usa materiali ecologici e fonti di energia rinnovabile e offre ai clienti servizi e cibi di provenienza biologica certificata. È un albergo naturale e vi costerà sicuramente un occhio della testa. Se volete andare a mangiare un po' di miglio con che un po' di valeriana, tra l'altro un euro a bustina ti dura due mesi, quindi non capisco. È un 36 euro un piatto di miglio. Namelaka, composto, questa è una parola bellissima, a quest'ora tra la cena e la merenda, insomma. Composto cremoso a base di panna e cioccolato con l'aggiunta di latte e gelatina, utilizzato come farcitura, guarnizione e come dolce al cucchiaio. È una parola strana. Io non lo so, cioè lo sai che guarnizione per me è solo una guarnizione di gomma dei vetri della macchina. Automobile, vito. Cioè non può essere. La moca. Non può, brava, sì, fino a lì ci arrivo, ma guarnizione per qualcosa di dolce ancora no. E in realtà, però so dire saccaposche. Io ti so anche dire di più, questa namelaka. Non avevo dubbi. Che io invece mangerei qualsiasi cosa si muove. Anche probabilmente qualcuno di voi se un giorno mi passate davanti è probabile che vi dia un morso in testa, qualcosa del genere. Allora, questa è una voce giapponese che, come si sa, generalmente il giapponese utilizza interiezioni e esclamazioni proprio come parole per definire qualche cosa. E questo namelaka significa estremamente cremoso, ma la namelaka è anche il ripieno dei dorayaki, quindi quei dolcetti che mangiavano sempre in Doraemon, che generalmente sarebbe fatta con la marmellata di fagioli e azuki, ma in questo caso abbiamo parlato di composta cremosa a base di panna e cioccolato. E la salivazione parte. Continuiamo con una fantastica pinzeria. Ora metto anche la lampadina di Pablo. Vediamo che ti succede. Che succede? Poi vi aggiorno in privato dopo. Tutto sui social, sarà tutto sul Twitter di Radio Wombat. Pinzeria, beh, d'altronde me lo merito. La pinzeria è un locale in cui si preparano, si cuociono e si servono al pubblico vari tipi di pinze e altre vivande. La pinza è una stronzata che si sono inventati i fornai romani. È buonissima, è una focaccia, ma nella storia gastronomica italiana, correggetemi se sbaglio, scrivetelo a posta@wombat.net o anche al pad della diretta che esatto. Trovate direttamente dal sito. Esatto, potete commentare e inveire contro di noi in diretta, e sappiamo che la pinzeria comunque è una cosa che è, insomma, un'invenzione molto recente. E nonostante questo le pinzerie stanno veramente spopolando ovunque. Nella nostra odiatissima Firenze ce ne sono davvero tante. E, sacripantina è un'altra parola sempre legata al mondo gastronomico, che è una torta genovese a base di pan di Spagna intrisa. Ma hai fatto apposta a trovare tutte queste parole? Intrisa di rum e zabaglione. E l'ora del tornagusto. Oddio, è tipo una diplomatica, solo che non ha la pasta sfoglia. Ed è derivato, sentite che bello, da Sacripante, che è il nome di un personaggio dell'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo, ma anche dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. La parola prima compariva solamente in questi due, in queste due tragedie, e, mentre nel gergo culinario e gastronomico italiano è comparsa per la prima volta nel 1851. Penso che in questi giorni, in questi anni, invece l'abbia poi riportata in auge il maledettissimo cracco, che se ci andate a mangiare altro che Biotel, lui sì che vi dà veramente la mazzata. E, andiamo ora con i neologismi della settimana Treccani, un po' la settimana enigmistica, invece in questo caso è la settimana Treccani. Almeno questi erano stati attestati, mi sa, una decina di giorni fa. La Treccani aveva indicato la didattica mista, il furbetto della beneficenza, ma soprattutto alcune parole che sono veramente belle: il procrastinating, che è quello che vorrei fare io sempre, il quick commerce e la variante Omicron 2. Oh, avevamo detto però se veniva pronunciata la parola con la C o con la V, attenta, saremmo incorsi in multe salatissime. Mettere subito un soldino qui. Preventivo. Ma non è giusto. Vai, ecco. Non è giusto. Allora, intanto partiamo però dalla parola che secondo me è la più bella che andremo a tirare fuori in queste due trasmissioni, cioè la scorsa e quella di oggi, il procrastinating. Chi in quarantena ha perso la voglia di flirtare e procrastina il primo appuntamento e quindi fa procrastinating. Ovviamente è stato attestato da quel po' di rivista veramente, direi, ecumenica quasi, che è La Repubblica delle Donne. No, guarda. Una roba orrenda per le mogli radical chic. Ma finge di non essere così banale terra terra, però parla di rughe, cellulite, figli che mi fanno perdere la testa. La testa, ho tre figli con, cioè, l'avvocato. Delle rughe agghiaccianti, mamma mia, e ricette. Cioè, sì. E poi? Ma nemmeno negli anni 50 in America probabilmente c'era questo stereotipo della donna. È terribile. Però c'è, hai visto quel piccolo lumen, come dire, di intelligenza, perché ogni tanto intervistano la Concita De Gregorio che la piglierà a schiaffi, figurati. La nostra Lillona Gruber, che insomma un po'... Sì, perché le donne devono seguire l'esempio. Certo. Però le donne sono donnine. Mi sinceramente così. Che è la Gruber. Vabbè. Oh. Vabbè. Comunque, questo era un articolo che potete trovare sul procrastinating nella Repubblica delle Donne, appunto, del 23 gennaio 2021. E poi abbiamo il quick commerce, che è quella tipologia di commercio velocissimo, che è la generazione successiva dell'e-commerce praticamente, ed è l'assortimento maggiore in un negozio, non infinito, ed è proprio ciò che ha a che fare con l'assortimento delle città e dei quartieri. È un termine un po' particolare questo, che è stato invece attestato dal fratello povero di Io Donna del Corriere della Sera, proprio di recente, l'8 di gennaio del 2022. E poi abbiamo il furbetto della beneficenza. Da Striscia la notizia che maschera i furbetti della beneficenza a Orio. Orio al serio. Deve essere un posto bellissimo. Sicuramente hanno un bio albergo da quelle parti. Sì, sì, sì. È tutto bio anche lì, sì. E anche lì termine che è entrato un po' in voga, appunto, sempre nel vocabolario Treccani, all'incirca verso l'8-9 di gennaio 2022, quindi recentissimo. Ora, vuoi fare una piccola pausa? Ascoltiamo sì, un po' di musica. Grazie. Cosa mettiamo? Problemi tecnici su Radio Wombat, scusate. È successo un patatrac. Allora vabbè, tanto io posso parlare a macchinetta, lo sapete. Posso... No, no, ma ci siamo quasi. Eccoci. Eccolo. È lui, scusate, avevo sbagliato Elvis. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Potevi essere anche tu questo. No, il povero e compianto Elvis. Avete mai visto qualche documentario sulla sua casa di Memphis? Avete mai visto che nel bagno aveva delle bellissime piastrelle rosa con i barboncini? Esattamente il luogo veramente, in cui è morto. Veramente? Sì, l'hanno trovato morto in un bagno con le piastrelle rosa con i barboncini. Vabbè. Questo genio. Piccolo particolare a metà tra il tragico e il ridicolo. L'irlandese sì, dai sì, capelli sì. Neri, guarda. Ma è arrivato il momento di elencare i neologismi dei nostri grandi rivali. I rivali di Accademia. Mm. La Crusca, che maledetti loro alla fine. Però non so se hai notato, l'ho scritto con la C, non ho sbagliato. Perché sì. Generalmente quando devo scrivere ormai Accademia della Crusca scrivo Brusca. Vai, in input, cioè, proprio sì, automatico. Sì, guarda. Questa è l'Accademia della Crusca, con la velare Crusca, è una velare Crusca. E parliamo di sbatti. Uè, che sbatti, raga, però... Non potevo non me. Varianti, la sbatta, che purtroppo mi capita anche a me di usarlo. Ambito d'uso, giovani. Ambito d'origine, giovani. Area di provenienza, uè, figa, la Lombardia. Categoria grammaticale, sostantivo. Uè, figa. Allora, diciamo che i nostri rivali hanno definito lo sbatti o la sbatta come il darsi da fare anche improduttivamente nel tentativo di ottenere un determinato risultato. Grande noia, depressione, anche rabbia. Non avere lo sbatti, la sbatta di fare qualcosa. E l'etimologia è un accorciamento di sbattimento, un deverbale dal verbo intransitivo sbattersi, quindi darsi da fare, affannarsi e faticare. Sbatta, probabilmente metaplasmo di genere di sbatta, cioè pensate un po', abbiamo i neologismi e il metaplasmo, metaplasmo, che addirittura è un cambiamento della struttura della parola, insomma, che praticamente diventa un suo sinonimo, no? Ed è sbatta, appunto, il metaplasmo di sbatti. E che significa noia, barba, che pizza. Prima attestazione 2003, correva là nel periodo delle chat su Messenger e dei forum. Prima attestazione, piuttosto sapete mica dove trovare dei manga scan online, almeno mi evito lo sbatti di prendere il manga incompleto per la parte finale. Commento di Kyosuke81 sul forum HV Upgrade del 27/8/2003, cioè praticamente io cosa avevo, 17 anni, sì. Sbatta, 2004. Per quanto riguarda le cartine, esiste un tipo di smoking realizzato interamente in canapa con colla naturale? Non credo esista la versione corta della sigaretta, ma alla fine basta tagliarle, no? Dite che è troppo una sbatta? Vabbè. Furboni. Commento di Night HC del 4/5/2004, sempre su questo hwupgrade.it. Però questo termine si è affermato propriamente tra il 2019 e il 2020. Chissà perché alla vigilia del coso, di quella cosa là... Cioè no, io il soldo non lo metto. Non mi freghi. Quella cosa là, come si chiama? Non mi freghi. Non lo dirò. Però non è ancora presente sui dizionari, tant'è vero che ne ha parlato appunto l'Accademia della Crusca con la C. E vediamo un po' di occorrenze. Google, uno sbatti 12.600, sono gli sbatti, che vuol dire sbattimenti, un paranoia, 5.310, avere lo sbatti, quindi avere l'accollo di fare qualcosa, 858, ho lo sbatti, idem, 2.440, insomma, come potete vedere, attestazioni veramente tante. Corriere della Sera, invece, nel 2015 ha uno sbatti, zero sbatta. La Repubblica, zero sbatti e tre sbatta nel 2014. Chissà, io donna, quante... oppure la Repubblica delle Donne, quante sbatte hanno, guarda. Mamma mia. Andremo a indagare. Mamma mia. E alcune note che ci dà la Brusca, sbatti e sbatta sono due accorciamenti di sbattimento, di palle, di coglioni, nel significato di il darsi da fare anche improduttivamente, come dicevamo prima. E anche Devoto Oli nel 2022 in realtà si aggiorna e inserisce il termine sbatti all'interno delle sue attestazioni. Questi accorciamenti, sbatti e sbatta, nascono nel linguaggio giovanile circoscritto alla città di Milano, comunque all'area lombarda. Io sarei un attimo più precisa, perché l'area lombarda ha anche il confine con la Svizzera, lì mi sa che sbatti o sbatta, sotto Como, da quelle parti non lo dicono. È proprio milanese, magari della zona, se no, dell'Interland, di Pavia, insomma una roba un po' più sud. E comunque però sul Devoto Oli c'è invece il deverbale sbattersi. Cioè esatto. Il deverbale di sbatti e sbatta è invece poi stato messo come verbo intero al Devoto Oli del 2022. Quindi ci arriviamo. Diciamo ora, che sì, l'anno sì. prossimo lo sbatta c'è. Speriamo. Sì. Diamogli un po' di che mesi. Sbatta. Vedrai. Quelli del Devoto devono sbattersi. Poi vabbè, tutta la regionalizzazione del termine, perché ovviamente la musica, come definiscono loro, rap, ha utilizzato sia il nord che il sud il termine. Nel 2012 lo troviamo in un brano di Fedez, nel 2015 già ahimè Sfera e Basta. Insomma, parlare pure di rap con sta gente mi sembra un po' eccessivo. Non allarghiamoci. No. Vogliamo ascoltare un po' di musica e poi passiamo agli altri neologismi e consigli del gruppo Incipit. Che ne dici? Madonna, maledetti bastardi. Sì. Se non è troppo una sbatta, direi che si può mettere un po' di musica. Allora guarda, ti farò anche ascoltare qualcosa di dinamico e di divertente. Giovane dinamico. Noi intanto balleremo qui in radio, ragazzi. Radio Wombat, Accademia della Brusca. Si parlava appunto di detox alcolico e il pezzo sotto era perfetto, direi. Non vedo l'ora di buttarmi tra le braccia di un barista, un asterisco barista. Scegliete non voi. Non male. Allora, ma chi è questo gruppo Incipit? Io devo fare un coming out. Non so chi è. Bastardi maledetti, perché ho letto qualcosa, È il gruppo della Crusca, quella vera che si occupa di esaminare tutti i forestierismi o i neologismi all'interno del gruppo di studio dell'Accademia della Crusca. Quindi ci sono i vari delegati che, chiaramente abbiamo la lista di nomi e cognomi, ma non la faremo. Per dire, abbiamo i vostri nomi, tutti. Però ci sono, ecco, due di loro li conoscono, uno personalmente anche. Ecco, vedi. No, più che altro perché poi... Lo sapevo, ti leverò il saluto. Perché si occupano di creare dei sostituti a quei termini che arrivano e sono benissimo sostituibili dalla lingua italiana, ma ci ostiniamo a usare la variante, magari quella più usata, più... L'ha detto! No, non l'ho detto ancora. L'ha detto variante, ma stiamo per scadere sempre di più nel tema. Non lo dirò, però nel tema ci siamo in pieno con tutti e due i piedi, con tutti e quattro i piedi. Le sabbie mobili del film preferito della Nenia, che è, coso, Indiana Jones. Sicuramente. E tra l'altro però, ecco, i comunicati del gruppo Incipit si possono leggere chiaramente nel sito dell'Accademia della Crusca su attività gruppo Incipit, e quindi lì c'è tutta tutte le variazioni, i sostituti ai termini che potrebbero appunto essere sostituiti dall'italiano. Fanno in realtà un lavoro molto prezioso, perché adesso noi si prendono un po' per i fondelli, no? Però è un lavoro molto prezioso perché effettivamente... risponde a quel problema che tantissimi linguisti, ma anche persone comuni normali, cioè probabilmente anche il mio meccanico per dire, si pongono sul perché utilizzare terminologie che o non sono italiane o molto probabilmente in genere non sono nemmeno esatte nel contesto, quando potremmo avere un'alternativa che nasce dalla nostra lingua. Non è una questione di autarchia linguistica. Esatto, non è semplicemente anche una questione come dire, di ottimizzazione, ecco, tutto lì, non è né autarchia né nazionalismo, però insomma. No, poi anche per quel famoso discorso che si faceva alla ripresa delle prime puntate del cercare di salvare parole che altrimenti rischierebbero di morire, perché laddove subentra una parola in altra lingua che sostituisce quella in italiano è comunque una parola che è destinata in qualche modo a morire. O perlomeno, sì, rischia altamente di scomparire dai dizionari. Sì, sì. Cioè, di entrare comunque ufficialmente in disuso. E sì, quando una parola è bella, è un gran peccato. Ma sì, proprio per il culto del... quasi un feticismo della parola, sì, a prescindere dal discorso linguistico, che l'inglese sia più o meno troppo preponderante. Al di là di quella polemica, è proprio un discorso di una bella parola che rischia di morire. È come un insetto in via d'estinzione, cioè la sento con quel, non lo so, volerne curare la sopravvivenza. È giusto, è giusto, è giusto. Per quanto poi magari non, cioè non sono una persona che fa uso di grandissime parole raffinate, però andarle a studiare, a vedere che una parola a rischio di estinzione un po' mi fa rosicare. Esatto, anche a me un po'. Perché rosicare è una di quelle parole molto dotte. Rosico, mamma mia, che sbatta rosicare. No, però effettivamente questa è anche un'azione che ognuno di noi può fare autocorreggendosi e utilizzando un sinonimo. Per esempio, adesso la parola che andiamo ad analizzare ora, che corrisponde all'analisi del comunicato numero 18 del gruppo Incipit, non ha propriamente in questo periodo un analogo, comunque un sostituto valido, ed è la parola booster. Un booster per accelerare l'abbandono dell'italiano. Allora, questo articolo, che è datato 8 novembre 2021, praticamente sostiene che il termine booster è nuovo per il largo pubblico italiano e non è quel motorino che hanno tirato giù dagli spalti allo stadio circa una ventina d'anni fa. Che sotto tuo geniale consiglio diventerà l'immagine di questo podcast. Puntata. No, è che io sono della generazione di quel del booster. Cioè c'era anche il Typhoon. Sì, ma il Typhoon scarenato non si poteva, perché era della Malaguti, se non sbaglio. Sì, sì, invece sì. Il booster era booster ed era... Wow. Sì, era molto figo. Sto ricordando il rumore agghiacciante. E nella maggior parte dei casi, se non nella totalità, questo termine... insomma, pare che non si avverta la necessità di renderlo chiaro, traducendolo, spiegandolo, magari soprattutto nei media e nell'uso che se ne fa dei media. Allora, booster è una parola inglese che viene utilizzata nel gergo nel campo medico, ha un significato tecnico molto preciso ed è propriamente una dose di vaccino che accresce e rinnova gli effetti di un'inoculazione precedente. Però non vale così, cioè, il salvadanaio... No, non devi mettere il soldino, stai tranquilla, bene. Ti tutelo io. Grazie. In italiano la letteratura medica usa fin dalla prima metà del secolo scorso la parola richiamo. Non ci stiamo riferendo soltanto al periodo contingente che stiamo vivendo da un po', ma proprio la parola booster e la parola richiamo sono traslabili a qualsiasi pandemia virale, ecco, o insomma qualsiasi tipologia di vaccino e via dicendo. Richiamo in senso medico è una metafora di un termine comune, però lo è anche booster, perché viene in realtà dal linguaggio dell'elettrotecnica, quindi qui ci avviciniamo di più al nostro amato motorino. E richiamo è anche una parola conosciuta e familiare al pubblico italiano, non solo nell'uso medico, però se pensate agli richiami dell'antitetanica, per esempio, nessuno ha mai contestato questo termine, anzi, proprio anche sulla tesserina vaccinale c'è scritto richiamo, quindi... la parola booster però è entrata in italiano e in particolar modo all'interno di una circolare del Ministero della Salute del 27 settembre 2021 firmata dalla professoressa. dal titolo Avvio della somministrazione di dosi booster nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2-COVID-19. E nel testo della circolare, la prima volta che compare, il termine vediamo che viene posto tra virgolette, però dopo questa circolare non più, viene quasi attestato come parola naturale. E questo è proprio il caso di un se ne poteva fare a meno, per quanto poi non, sì. non, ha, cioè, non nutro grande antipatia per il termine in sé, però semplicemente se ne poteva fare a meno. Ce la richiamo. Cioè, infatti. Molto semplicemente. Anche perché poi coinvolge veramente una troppo... vasto pubblico, a mia nonna le vai a dire devi andare a farti il booster. Cioè chissà che pensa, ti guarda, no, cos'è? Richiamo, via. La terza dose anche sì. viene volgarmente tra virgolette definita, chissà. Claudio Marazzini, che è il presidente dell'Accademia della Crusca, anche lui è stato intervistato pochi giorni prima di questo articolo e si è espresso sull'uso di questa parola, che attualmente viene impiegata appunto in ambito medico ma anche giornalistico, e anche lui conviene insomma che la parola richiamo sia sicuramente migliore. Lui ci dice che la diffusione indiscriminata e acritica tramite media non solo della parola booster da sola e senza l'equivalente italiano avviene anche perché insomma l'equivalente italiano esiste, mostra che ancora una volta si è persa l'occasione di aiutare gli italiani a capire meglio, forse per educarli all'abbandono della loro lingua o per dimostrare che l'italiano non ha parole adatte. E questo non è vero, perché richiamo per i vaccini esiste dalla prima metà del Novecento. Sono molte le malattie che richiedono la somministrazione di più dosi di vaccino. In italiano, in questi casi, ha spiegato Marazzini, abbiamo sempre detto richiamo, per esempio per l'antitetanica, e nessuno ha mai contestato questo termine. Quindi è anche una sorta di impigrimento della lingua, ma sembrerebbe appunto che queste terminologie che entrano nell'italiano in maniera così preponderante poi disabituino anche le persone a cercare un'occorrenza naturale nella loro lingua, attestata nella loro lingua, forse perché magari sembra desueta. È più figo dire booster, è meno figo dire richiamo, non so. O forse perché la parola booster... Però allora sì. Facciamo pace col cervello e definiamo cosa vuol dire figo, perché non so, c'è un cortocircuito. È estremamente soggettivo. Sì, capito? Infatti. Io penso di non averlo mai detto booster, se non appunto per riferirmi al motorino. quello sicuramente. Quel caso è giusto. E tra l'altro boost in inglese significa anche dare una spinta maggiore. Booster, il nome del motorino derivava da quello. Non so quante candele avesse. Ecco, guarda. Ditecelo apposta wombat@insiberia.net. Le sai tutte. Possiamo chiederlo ai nostri amici della trasmissione ad hoc di riparazioni, di elettrotecnica. Giusto. Insomma. Secondo me lì ce lo sanno spiegare. Assolutamente dire. Sì. Ce lo spiegano loro. Sì. E quindi insomma la preoccupazione, per chiudere, poi magari ci spariamo un pezzettino, dell'Accademia, specialmente in relazione all'uso degli anglismi, è quella di richiamare l'attenzione dei parlanti e istituzioni sul diritto di tutti i cittadini italiani alla piena comprensione di quanto viene espresso nei contesti ufficiali e istituzionali. Quindi è un problema comunicativo e di gap, di muro quasi volontario che, come al solito, le istituzioni italiane, penso quasi esclusivamente italiane, vogliono costruire nei confronti, insomma, della comprensione comune. Sì. E poi abbiamo l'ultimo termine a cui ci siamo dedicate, che è quello sempre derivante dal periodaccio di questi ultimi maledettissimi 2 anni. E si tratta proprio di infodemia. È bellissimo, è bello. Sì, questo è bello, sì. Che è, tra l'altro, è un tecnicismo, insomma, una parola che però deriva proprio dall'ambito delle scienze della comunicazione, quindi non è un termine che viene traslato da un ambito all'altro in maniera non coerente, no? E significa abnorme flusso di informazioni di quantità variabile su un argomento, prodotte e messe in circolazione con estrema rapidità e capillarità attraverso i media tradizionali digitali, tale da generare disinformazione con conseguente distorsione della realtà ed effetti potenzialmente pericolosi sul piano delle relazioni e dei comportamenti sociali. E infatti l'attestazione è nata proprio insieme al periodo del virus. Sì, perché guardate, il vaso di Pandora due anni a questa parte, esatto, è stato rotto, riparato, rirotto di nuovo. Anche rifatto, rimodellato, ricotto. Hanno fatto anche il kintsugi sul vaso di Pandora. Non l'abbiamo messa questa parola. Vabbè, ma scusa, ma perché non l'hai ricordato? Kintsugi è, secondo me, paragonabile per stupidità d'uso anche a resilienza. Resilienza... Sono come un vaso riparato con la tecnica del kintsugi, no, perché io sono resiliente. Ecco, perfetto. Ora cagatevi, stacco addosso, tutto e vado a casa. Ciao, buonanotte, arrivederci, grazie. Buonanotte, arrivederci, grazie. No, cagatevi addosso. Ecco, meglio. Meglio così, vediamo un po'. Dopo questa mia finissima digressione, e questa parola di uso recente, chi era? Infodemia. È una parola macedonia modellata sull'inglese infodemic, formato dalla fusione di information, informazione, e epidemic, epidemia. Prima attestazione 2015 in un'opera che si chiama I meccanismi completi della comunicazione delle emergenze di Giancarlo Manfredi, edito da Guaraldi. Il periodo d'affermazione è il 2020. E vabbè, e poi lo abbiamo sì già su Zingarelli, su Devotoli, sulla Treccani online, sì, già da prima come neologismo nel 2020, e poi compare insomma, nei vari organi di stampa, Repubblica, sì, tra l'altro la con stampa, tante occorrenze, perché Corriere della Sera nell'archivio ne ha 43, sul sito ne ha 38, la Repubblica 91, la stampa 14 nell'archivio e 12 nel sito, quindi insomma questa parola infodemico è sicuramente interessante. Ah, va bene. Questa epidemia di informazioni a cui siamo sottoposti, insomma, speriamo che finisca presto. Poi in temi sensibili per l'opinione pubblica, è questo il nodo cruciale di questa parolaccia. È vero, è verissimo. E stavo guardando un po' la nostra scaletta, perché il tempo è tiranno come sempre, e volevo far sentire il pezzo Tamarro, ma penso che invece cambierò idea, vi farò sentire un pezzo ballereccio. Ci sta, perché dobbiamo, perché col pezzo Tamarro ho avuto delle difficoltà tecniche, non voglio farvelo sentire dal tubo rosso perché poi si rischia che ci sia la pubblicità, quindi ve lo tengo per la prossima volta, lo scaricherò a modino. Tubo rosso, vedi, anche la Nenia si è uniformata. Beh, quello per evitare di fare inutile pubblicità. Non mi ricordo se l'abbiamo fatto già, ma leggevo un articolo divertente, perché per quanto tragico, insomma, le parole italianizzate durante il fascismo. Oh. Ce n'era una meravigliosa che non ricordo. Penso di avere anche un testo. Quello secondo me va fatto, perché vaghi ricordi di tesi. Sì. Fa veramente rendere conto di quanto fosse imbecille, è bellissimo. Sì, vabbè, lì c'era tanto anche lo zampino di D'Annunzio. Sì, che si divertiva spudoratamente. Vabbè. Ecco, questa è un'altra delle 15 puntate che, se avessimo tempo, dovremmo fare. Vabbè, ma questa però forse è di facile confezionamento. Sì, sì, sì, sì, sì, si può fare. Preparatevi. E allora ci salutiamo qui. Vedi come sono ripartita con un tono di voce improbabile. Perché, allora, dovete sapere che abbiamo queste sputacchiere, parasputi sui microfoni che tendono un po' a coprire visivamente la posizione del gelato. E che del se microfono guardi dentro ti fa un effetto psichedelico e ti gira anche un po' la testa. Vero. O forse l'odore del disinfettante, chi lo sa. Va bene. La droga del wombat. Sì. Allora vi lasciamo qui, così, sedotti, abbandonati, perché dobbiamo lasciare anche il tempo per uno stacco di musicale nostro, di Bobina dopo, per poi fare iniziare Walk Wops. Che belli. E abbiamo dato già i nostri social Wombat, a noi ci state ascoltando in diretta il martedì dalle 18 alle 19, ci ritroverete in replica il sabato pomeriggio alle 14 e niente più. Sì, dovevamo esserci anche la domenica, ma per ora no, perché dobbiamo ancora individuare un orario comodo, perché in realtà stanno iniziando diverse altre trasmissioni, quindi lasciamo la priorità alle nuove trasmissioni, alle dirette delle nuove trasmissioni. Quindi, detto ciò, Tanti saluti, tanti baci, riascoltate il podcast se vi siete persi l'inizio o basta, perché se vi siete persi la fine non mi state ascoltando. O se volete ripercorrere con noi questa esperienza abominevole, ascoltandoci. Allora, ballate bastardi e ci sentiamo martedì prossimo. Certo che stasera tra cagatevi addosso e ballate bastardi. Ballate bastardi in grande stile. In grande stile, divertitevi con questo pezzo, intanto che preparate la cena o vi fate un bel tornagusto. Brava. E ci sentiamo martedì prossimo. Con tante altre parole da salvare, perché ne ho una lista pronta. Ciao. Evviva. Ciao. Ciao, viva il Wombat. Viva. Un saluto a tutte le trasmissioni del Wombat, soprattutto quelle nuove, dai. Dai, tutte bravissime. Delle nuove, ancora ciao, di più. Ciao. Ciao.